fantastico, che lo blu limpido, anche se quasi rischiato l'infarto. Mi sento euforico, domani parto. Saluto tutti, mi aspettano solo giorni felici. Ho l'oro in bocca. Ma che bella! Ma se lo ricordo ormai, niente lavoro, le chiappa bagno, nel mare cado, gli antichi mi tagliavano, sono lontano ormai, non c'è futuro. Ma che bella! Ci sei più. Thank you. We'll be right back.